Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Tibet con Pierpaolo Di Nardo. Oggi abbiamo deciso di volare alto, così in alto da arrivare fin sul tetto del mondo. Siamo in Tibet e ci siamo con Pierpaolo Di Nardo. Il Tibet, o Tibet, è una regione autonoma della Cina che occupa 1.228.000 km quadrati. Enorme altipiano lungo 2.600 km e largo 1.300, situato a un'altezza media di circa 4.500 metri. Pur essendo efficacemente protetto da due poderose catene montuose, l'Himalaya a sud e il Kunlun a nord, presenta condizioni di vita durissime e gli insediamenti maggiori si concentrano nelle valli del corso del Brahmaputra, Yarlung Tsampo. In Tibet si parlano molti dialetti locali. Quello di Lhasa viene considerato il più puro della forma linguistica tibetana. Il personale alberghiero e le guide parlano sufficientemente l'inglese. La stagione più opportuna per effettuare un viaggio in Tibet va da maggio a ottobre. È necessario essere in possesso del passaporto valido. La validità non deve essere inferiore ai 6 mesi dalla data di entrata in Tibet. È in regola con le vigenti norme governative, marca da bollo. Il permesso per il Tibet viene richiesto per un minimo di 4 persone, presentando relativa documentazione. Di cosa parliamo quando parliamo di Tibet? Il nome ci porta subito nel mito. È una terra magica, è una terra mitica di grandi montagne, Himalaya, immobile, meraviglioso, l'Everest, il tetto del mondo. Quindi quando si parla poi di Himalaya subito c'è un po' di, come dire, un po' di timore, un po' di devozione, un po' di rispetto, no? Verso questa montagna maestosa. E poi parliamo del mito della cultura, dell'antica cultura buddista, che anche questa molto molto presente e molto forte, no? Con tutti i suoi segreti, con la vita dei monaci, dei lama, del Dalai Lama, appunto, tutte figure mitiche. Allo stesso modo, quando parliamo di Tibet, però parliamo di una terra di grande speranza, ovvero appunto quella della via buddista, della filosofia. Parliamo di una terra di sofferenza, perché è quella che attualmente è imposta dai conquistatori, perché l'invasione e la colonizzazione del Tibet è realmente qualcosa di concreto. E poi parliamo anche di Tibet come terra di resistenza, quella dei monaci, perché i monaci continuano da anni questo loro tentativo costante di preservare questa cultura, di salvaguardare i loro valori, di salvare questa cultura che scompare, appunto la cultura buddista himalayana. Come ci ha detto Pierpaolo, il Tibet e non il Tibet, anche se sarà difficile dirlo con l'accento nel posto giusto per tutto il viaggio, è un luogo magico, mitico, ma soprattutto è un luogo di resistenza. E in generale purtroppo sappiamo poco di queste cose, a volte è anche scomodo parlarne, no? E da lontano si vede poco, e solo quando ti avvicini alle cose incominci a metterle a fuoco, incominci a capirle. E la cosa importante appunto è cercare di comprendere che ci possiamo soltanto avvicinare, ma non possiamo comprenderle a fondo. Avvicinarsi è già abbastanza. Eppure appunto ne parliamo poco, ne sappiamo poco, conosciamo alcuni cliché, il Dalai Lama, l'Everest, il Potala, questi monasteri meravigliosi. Però il Tibet nella sua completezza, nella sua complessità esiste e soprattutto resiste. Perché con le poche forze che ha, appunto, i monaci devono inevitabilmente, non hanno scelte, devono inevitabilmente resistere per salvaguardare la loro cultura. E soprattutto quando sono a rischio la memoria, la storia, l'identità dei popoli, allora è lì che è necessario resistere. E resistere si può, dico io. Resistere si deve, aggiunge Pierpaolo. Ed è appunto il tema della resistenza anche che mi viene molto familiare in questo periodo. È anche importante per me questa occasione di parlare della resistenza, perché poi la resistenza tibetana e la resistenza in qualsiasi modo tu la possa concepire, è un po' l'argomento che ho affrontato in questi ultimi anni. Ho finito appunto di scrivere in questi giorni il mio romanzo che si intitola Mentre ancora tutti dormono, che è un romanzo che non è ancora uscito, è di prossima pubblicazione, speriamo. È un racconto di resistenza, appunto, ambientato in un mondo surreale in cui ho provato a pensare a cosa stiamo diventando e ho immaginato come saremo tra 20 anni. Quindi ne è venuto fuori un romanzo grottesco, dissacrante, un po' irriverente, dove i libri sono al centro della narrazione, i libri sono i protagonisti della storia, il libro inteso come resistenza, il libro inteso come universo da salvaguardare, no? Perché è il mondo dell'immaginario. E quindi dove la memoria e la resistenza sono le uniche armi che abbiamo per sopravvivere in questo mondo sciagurato che ci è toccato di vivere, così mi piace definirlo. Sembra il libro giusto per compagni di viaggio, dove i libri sono i protagonisti della storia. Che meraviglia! In realtà cosa c'entra con il Tibet? C'entra tanto e niente, soprattutto tanto a livello di contenuto, perché e il Tibet mostra una via di resistenza, mostra la via che il piccolo può comunque cercare di combattere contro le grandi, imponenti forze del grande, no? E cercare di resistere. E il Tibet resiste, il Tibet esiste e resiste. Direi che resistenza è la parola giusta per definire il Tibet di questi tempi. E se ne sta lì, aggrappato alla montagna e con i monaci che continuano la loro battaglia, che portano avanti a fatica la loro storia, con la grande storia dei Dalai Lama, con l'imponenza di queste scuole di pensiero filosofico. Quindi esiste e resiste quotidianamente. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Tibet con Pierpaolo Di Nardo. Il Tibet è terra di resistenza, non solo terra di grande cultura e storia. Anzi, nelle parole di Pierpaolo Di Nardo, che il Tibet lo conosce molto bene, sembra proprio che siano la storia e la cultura a chiamare la resistenza, poiché ultimamente sono in pericolo. Io sono stato in Tibet molte volte, l'ho visto cambiare profondamente, irrimediabilmente purtroppo. Quando viaggi come ho viaggiato io, spesso parecchio in giro, India, Sud America, Asia, Himalaya, Medio Oriente, non è facile cogliere i cambiamenti, non è facile cogliere i cambiamenti, i mondi che attraversi ti diventano quasi familiari e quindi fai fatica. Ho fatto 70, forse 80 viaggi in India negli ultimi 15 anni, ho scritto 2 libri sull'India. Il cambiamento costante dell'India quasi si nasconde, non si confonde, c'è ma si vede a fatica, si mescola con la complessità indiana. Ma vediamo com'è cambiato negli anni il Tibet. Cambiamento non solo geografico, come ci racconta Pierpaolo. Mentre invece in Tibet il cambiamento si vede benissimo, immediato. E si sente, soprattutto si sente perché le cose dell'Asia si sentono, più che vederle le devi sentire. E il Tibet poi ha una storia particolare, è singolarissima, ha vissuto un lungo isolamento fino agli anni 80 praticamente. Pochi e rari sono stati gli esploratori, fortunati, viaggiatori, antropologi, penso a Giuseppe Tucci, a Fosco Maraini, personaggi che scoprirono un paese immobile da secoli, incontaminato, saldamente ancorato nella sua cultura, il buddismo in questo caso. E immagino appunto questi personaggi che arrivano davanti al Potala, il grande monastero di Lhasa, il grande palazzo di Lhasa, e scoprono un posto meraviglioso, in equilibrio, sano, incontaminato, una terra mitica in bianco e nero, diciamo così. E poi negli anni 50 la devastante avanzata cinese, la fuga del Dalai Lama, l'apertura al mondo, il turismo, la colonizzazione forzata degli anni 90. Io il primo viaggio l'ho fatto negli anni 90 e l'ultimo l'ho fatto 3 anni fa, quindi torno a parlare del cambiamento che si sente. E adesso quindi grandi strade, treni ad alta quota, città, esempi di modernità che non sempre corrispondono a una modernità positiva. Quindi una nuova geografia, un paesaggio che cambia e forse scompare, monaci in grande difficoltà e quindi un paese che pian piano si sta sfilacciando, no? Si sta perdendo per strada, ahimè. Sul viso di Pierpaolo scorgo un po' di malinconia. Quel Tibet che non c'è più manca. Manca a lui da viaggiatore, ma certamente manca anche al Tibet stesso. Ma esiste anche un Tibet che io ricordo bene, appunto quello dei primi anni 90, metà anni 90, non è così lontano nella memoria, che è un luogo meraviglioso fatto di speranza, quindi di pellegrini in preghiera davanti al Jokang, al tempio più importante del Tibet, incensi che bruciano sulle piazze, monasteri inarrivabili dove i monaci cantano i loro mantra dalla mattina alla sera, valli desertiche meravigliose con oasi di orzo e di colza, villaggi in assoluto equilibrio, seppur di fango, con poche cose, però dove la gente è sorridente e serena, il grande fiume, il Brahmaputra, che attraversa tutto il Tibet classico, il Tibet storico, da attraversare appunto con barche leggere fatte di pelle di yak. E poi appunto questa imponente storia buddista, l'imponente storia dei monaci, quindi questo Tibet c'è ancora. Prima ho parlato di un Tibet che Tibet, ahimè, siamo sempre in questo gioco di parole, Tibet che scompare, però appunto esiste ancora un Tibet che resiste, che c'è ancora, che è ancora presente, per quanto tempo ancora non lo sappiamo. È un po' sofferente, ma c'è perché resistere. Perché resistere si deve. Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Sureshum Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Sureshum Vishwadaram Gaganasadrasham Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham. Il Tibet che resiste, esiste, ma al di là dei giochi di parole è con sollievo che possiamo dirlo. E quindi è un Tibet fatto di montagne, monasteri, storia, spiritualità, grandi spazi, ecco, una cosa importante, una cosa impressionante sull'Himalaya che ti colpisce subito sono questi grandi spazi infiniti, no? Questi silenzi assordanti che ti aprono mondi interiori, situazioni che mai avresti immaginato, colori intensi che non hai mai visto, proprio per via della luce, questa luce che è una luce nuova, che ravviva le cose e te le restituisce come se le vedessi per la prima volta. Perché è una cosa impensabile a quell'altitudine. Pur non avendo ancora fatto nessuna domanda sui sensi, Di Nardo mi restituisce una fotografia del Tibet che sa di tutti i sensi messi insieme. Il Tibet si estende tutto sopra i 3500 metri, più o meno, 3300-3500 metri. Quindi quando arrivi a Gongar, che è l'aeroporto della valle del Tibet, c'è quest'aria, scendi dall'aeromobile, c'è quest'aria frizzante, no? Ti viene il formicolio alle mani, ai piedi, ed è semplicemente aria. E tu che vivi a Milano lo sai bene, no? Perché è aria, è qualcosa che senti subito, di cui senti subito il sapore in bocca. Semplicemente aria, però è vera, no? E sei in Tibet dove hai questo privilegio, il privilegio di essere davvero a contatto con la storia mitica dei Dalai Lama, la storia mitica dei monaci e la storia mitica dell'alta montagna. E poi hai questo privilegio grande di poter vivere nella macchina del tempo, che è il tipico gioco dell'India, no? O comunque dei paesi legati all'India. Nel giro di uno sguardo ti cali nel Medioevo, dove antico e moderno convivono fianco a fianco, dove l'arte antica e l'arte moderna si mescolano, ed è proprio la grande capacità poi di queste culture, la capacità di ingurgitare e di trasformare, è quello che è il lavoro che hanno sempre fatto queste culture indiane o comunque legate all'universo indiano, tra cui appunto il Tibet, il Nepal, il Bhutan, eccetera. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Tibet con Pierpaolo Di Nardo. Monaci e alta montagna, vette concrete da scalare a piedi e vette di spiritualità da scalare con l'anima. E poi, in Tibet, come ci racconta Pierpaolo, anche il tempo è strano. Basta una frazione di secondo e sei in una nuova dimensione. E appunto giochi con la macchina del tempo, che è un sogno meraviglioso, no? Il Medioevo è lì, appena cominci il viaggio attraverso i villaggi di fango meravigliosi, i bambini con la goccia al naso che ti corrono incontro e per abbracciarti non sai neanche per quale motivo, ma è bellissimo, i monasteri che se ne stanno arroccati in luoghi impossibili, e poi le campane dei templi che scandiscono la vita, no? Le campane che scandiscono il ritmo della giornata, le donne che cantano mentre lavorano nei campi, mentre costruiscono i tetti, per esempio. E questi suoni meravigliosi, le trombe tibetane hanno un suono lunghissimo, hanno un suono molto particolare, una vibrazione che è quasi un massaggio per il cuore, no? E quindi ti fai un po' prendere da questo massaggio di queste trombe, di questi mantra, di questi canti, con una sensazione piacevolissima, e di nuovo fai questo salto indietro nel tempo di 450 anni, in un attimo sali le scale, entri nella sala di preghiera di un tempio, e lì vedi una schiera di monaci che sono in preghiera con i loro drappi rossi, che sono immersi nel loro momento altro, che si dondolano avanti e indietro alle 6 del mattino e recitano questi mantra. Ovviamente non capisci assolutamente niente di quello che recitano, però è una cantilena bellissima e quasi ti culla, no? E di nuovo torna questo massaggio al cuore. Un massaggio al cuore mi ci voleva, e il viaggio diventa sempre più un viaggio interiore. E ti siedi in un angolo, in silenzio, partecipi al rito, semplicemente, perché il rito è universale, non devi conoscerlo. Il rito è energia, è pura comunicazione fra gli umani, fra gli esseri umani e gli dèi. E quindi partecipi al rito, partecipi a questa cerimonia di pura comunicazione, e l'energia che senti. E non vorresti mai alzarti da quell'angolo buio in cui ti sei infilato, no? E sei lì, e quell'angolo buio però a un certo punto assume una connotazione molto molto importante, prende fuoco, diventa luce, diventa tanta luce, soprattutto tanta luce interiore, e quindi sei lì in comunione coi monaci nel tuo angolo buio illuminato, e bevi un tè con il burro di yak, e i mantra ti portano, i mantra ti conquistano, no? E tu cominci a viaggiare. E di conseguenza, di nuovo, mi viene da pensare a questi grandi viaggiatori privilegiati che hanno scoperto questo Tibet e che per fortuna ce l'hanno riportato in maniera anche mitica, perché il Tibet è mistero, è segreto, è tutto ciò che ci è stato raccontato da questi grandi viaggiatori. Oltre alle grandi sensazioni che si provano nei templi e nei monasteri, prosegue Pierpaolo, c'è poi la grande montagna, infinita, imponente, immensamente vuota. Ed è un vuoto che tenti di riempire provando a dargli un senso, e così ti concentri su di te, cerchi l'energia interiore, cerchi un senso più ampio e cominci a fare un vero e proprio viaggio dentro di te. Perché poi il viaggio vero e proprio che tu puoi fare in questi paesi caratterizzati da queste grandi culture è soltanto un viaggio interiore. Non si viaggia mai soltanto con la carcassa umana di corpo e ossa, si viaggia sempre soprattutto con le sensazioni, con le emozioni, con la volontà di imparare, con la volontà di accettare ciò che è diverso da te, no? Ed è quello che poi i monaci fanno quotidianamente, nella loro singolare battaglia per raggiungere il nirvana, ovvero questo tentativo di liberarsi dai desideri e dall'illusione del mondo materiale, che è poi la chiave, la chiave di lettura del Tibet, no? E ora, dopo il nirvana, siamo pronti per affrontare fisicamente il tetto del mondo. E al di là di questo, poi appunto, dicevo prima, l'Himalaya con questa immensità, l'Himalaya che però per cogliere appieno devi vivere sulla pelle, sull'impatto proprio fisico, devi sudare, devi camminare, devi sporcarti le scarpe, altrimenti è come andare al mare e non fare il bagno, e quindi devi davvero avere la sensazione del sudore che ti scende lungo la schiena mentre scendi, anzi mentre sali per conquistare una piccola vetta. Parliamo di cime sempre di 5-6 mila metri, e magari non è la tua occasione quella di arrivare a 5 mila metri, però a 4 mila sicuramente sì, perché il Tibet è lì, e quindi devi conquistare un sentiero, devi scendere una scarpata rocciosa, e l'altitudine ti mette alla prova, no? E poi è questo, l'Himalaya ti mette sempre alla prova, ti mette sempre alla prova, e tu devi andare un passo dopo l'altro, andare dietro, andare un passo dopo l'altro, e devi lasciarti portare dai piedi e dal cuore, perché l'Himalaya è questo, e se ci pensi i piedi e il cuore hanno sempre lo stesso ritmo, vanno sempre insieme, no? E forse anche grazie a questo ritmo che magari riesci a trattenere le cose che ti fanno star bene e a lasciare le cose di cui non hai bisogno, lasciare andare il resto, no? Farsi attraversare dalle cose che non ti sono vicine. Credo che sia anche questa la chiave di lettura del buddismo, e questa anche la porta d'ingresso per entrare in Tibet. Il viaggio è così bello che quasi son triste perché so che dovrò tornare. Leggo una poesia di Lawrence Ferlinghetti, anche se non parla di Tibet, e mi passa tutto, perché voglio rimanere qui. Venite, andiamo, svuotiamo le tasche e scompariamo. Mancheremo a tutti gli appuntamenti, ci rifaremo vivi fra anni con la barba lunga, vecchie cartine di sigarette attaccate ai pantaloni, fogli nei capelli. Non ci preoccupiamo più dei pagamenti, che vengono pure a prendere tutto ciò per cui stavamo pagando, e si prendano anche noi. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Tibet con Pierpaolo Di Nardo. Dopo aver visitato quasi tutto del Tibet attraverso le parole di Pierpaolo Di Nardo, non ci resta che chiedergli come lo si può raggiungere veramente. E già che ci siamo, gli chiedo anche di darmi delle dritte su cosa davvero è il caso di vedere. Dunque, in Tibet ci si va soltanto organizzando il viaggio, anche per una questione di permessi che non vengono rilasciati dalle autorità cinesi, ahimè. E quindi tutti i viaggi devono essere studiati a tavolino, devono essere autorizzati, di conseguenza inevitabilmente un viaggio deve essere organizzato, quindi ci sono tour operator, piccoli, grandi, e ognuno propone diverse attività, diverse opportunità. Ciò che farei per andare in Tibet è davvero gustarmelo a fondo e fare la traversata transimalayana, ovvero andare all'Asa in volo e poi tornare via strada a Kathmandu, per esempio, che è un viaggio molto classico in Tibet, però che davvero ti dà questa completezza, ovvero nella prima parte tu visiti questi monasteri e partecipi ai riti, no? A ciò di cui parlavamo prima, i riti dei templi, dei canti, dei mantra, delle cerimonie di preghiera, cerchi di avvicinarti al loro modo di vedere e di vivere la filosofia buddista, e nella seconda parte invece, di nuovo, ciò che dicevo prima, entri in contatto con la montagna. Allora cominci, arrivi a 3.000 metri, 3.500 metri nella valle del Brahmaputra, e dopo aver visitato diversi monasteri cominci il viaggio dai 3.000-3.500, sali a 5.000 metri sull'altopiano tibetano, deserto d'alta quota, roccioso, attraversi altri villaggi, altre piccole città e monasteri, tanti, e poi scendi dall'Himalaya proprio in modo fisicamente, in modo forte, perché da 5.200 metri, per esempio, in una delle ultime giornate della traversata, scendi fino a 2000 metri, fino a 1700 metri a ridosso di Kathmandu, quindi vedi cambiare improvvisamente nell'arco di 6-8 ore tutto il paesaggio, dall'aspetto più lunare, desertico, roccioso, con queste cime innevate, perché poi la strada passa davvero a pochi chilometri dall'Everest, dal Choyu, dal Makalu, da queste grandi montagne mitiche, e stiamo parlando di oltre 8000 metri ovviamente. E quindi tu sei lì, di nuovo a contatto col mito, e hai questa montagna che ti scorre accanto e vedi cambiare tutti i paesaggi, dall'aspetto più lunare a quello più tropicale quasi, delle vallate del Nepal. I consigli di Pierpaolo sono degni di un tour operator navigato. Si può dire che abbiamo organizzato il nostro personalissimo viaggio in Tibet. E una cosa anche da non perdere, secondo me, è l'escursione al primo campo base dell'Everest, che con una piccola deviazione lungo il percorso della Transimalayana si può, quando rientri in Nepal, si può includere, per esempio, che è sicuramente interessante perché arrivi proprio a due passi dalla grande montagna, no? dal grande Everest. Dopo le cose che si devono fare, arrivano quelle che è meglio non fare. Qualcosa che è meglio non fare, sicuramente, ahimè, di nuovo, non portare delle immagini del Dalai Lama in Tibet. Questo non è possibile, può essere pericoloso, perché, ripeto, il paese che resiste ovviamente è sotto pressione. E quindi questo può essere un problema, perché anche se il viaggiatore non necessariamente sente tutte queste tensioni, ma è un paese occupato di fatto, e quindi questo può comportare dei problemi. È un paese occupato nel senso che militarmente, con forme di controllo diverse, questo paese appunto subisce questa occupazione. Quindi questa è una cosa da non fare. Un'altra cosa invece più pratica, se vuoi, non fare l'attraversata in senso contrario, ovvero da Kathmandu non salire all'Asa, non andare in Tibet da Kathmandu via strada, ma farlo al ritorno, perché salire dai 2000, 1700 ai 5000 in una giornata diventa davvero faticoso. Chiedo ora qualcosa che ci dobbiamo assolutamente portare a casa, oltre al respiro dell'universo che è entrato dentro di noi con tutta questa spiritualità. In Tibet tutta la cultura himalayana, buddista himalayana, è ben rappresentata, quindi puoi trovare bellissimi oggetti di artigianato in legno, in argento, con delle pietre semipreziose molto lavorate, con stili ovviamente legati alla cultura locale, quindi alla cultura sacra, oggetti sacri. Tendenzialmente non si trova più niente di antico, però oggetti sacri più recenti, molto belli. Puoi trovare delle bellissime immagini sacre, per esempio i tanka, che sono delle immagini dipinte o tendenzialmente dipinte su stoffa o su carta, e sono immagini sacre che sono dei drappi, no? Che praticamente rappresentano, danno la possibilità, almeno anticamente era così, adesso sono oggetti, cimeli, davano la possibilità di trasportare la propria divinità in viaggio, no? Quindi un popolo di pastori, di nomadi, per lunghi secoli aveva queste immagini divine, sacre, raffigurate, dipinte su dei drappi di stoffa o di carta, e venivano arrotolati, e poi nel momento della preghiera venivano srotolati, e davanti a questa immagine si poteva appunto trovare la concentrazione adatta per rivolgersi alle divinità del pantheon buddista, ad esempio. Questo è un ottimo, è un bellissimo oggetto, ce ne sono di bellissimi, più o meno antichi anche qui. Diciamo artigianato locale legato alla cultura sacra, al buddismo, alla storia di questo paese, che è centrale. E la storia di questo paese, che è immensa e che, come ci ha raccontato Pierpaolo all'inizio, ha la necessità di resistere, richiama alla mente un passo del suo libro, Quando ancora tutti dormono. Un passo che non solo chiude questo viaggio, ma apre nuovi pensieri. Buon viaggio e buona resistenza. Senza sogni sei solo. E rimanere solo è la cosa che non devi fare. Mai. Quando ti senti sprofondare nella notte, esci fuori. Cerca qualcuno che ha un dolore come il tuo. Riconoscilo. Cerca qualcuno che lecca ferite. Cerca qualcuno cui leccare ferite. Condividi il dolore. Resisti. Resistere si può. Resistere si deve. Ora Pierpaolo Di Nardo è in libreria con India del Sud, nella terra degli dei, edizione Polaris.